andare alla Zanzara porta sfiga, anche perché loro cercano questo. Allora, aspetta, questo lo sta dicendo Red Ronnie. L'ultima volta io mi sono stufato. L'ultima volta io gli ho dato fiducia e hanno fatto delle ironie sul terremoto, allora ciao. La Zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Il falco va senza catene, fuggia gli sguardi, sa che conviene, è indifferente, sorvola già tutte le accuse, o schiaccia. Io che sono falco, falco a metà. Sono di nuovo sul grattacielo ed ho imparato a volare. I tempi per le elezioni ci sono, ovviamente dipende dal Presidente della Repubblica, dipende dalle sue prerogative, ma se non c'è una maggioranza, io penso, e in democrazia non è poi questo gran danno, no? Ma già dire. Quest'anno? Ma certo, perché i tempi ci sarebbero. Seduto su un grattacielo. La grande sconfitta dei falchi, caro Parenzo. Si apparecchia la grande sconfitta dei falchi intorno a Berlusconi, perché Alfano sembra che abbia tirato fuori le palle, come si dice, le palle. Minaccia Berlusconi di formare un gruppo autonomo e forse gli fa fare retromarcia sul governo. Questo è il quadro. Sulla sua ultima occasione. Alza la voce perché non si sente una mazza, eh? È la sua ultima occasione, come negli aerei, è l'ultima chiamata, last call, l'ultima chiamata, sai quando l'aereo sta per partire, no? E ti chiamano, perché il gate si sta per chiudere. E intanto diventa responsabile, lo sai chi? Diventa fondamentale per i mercati, per il governo, per la stabilità internazionale, ma che razzi, ma non sai niente. Diventa fondamentale, indispensabile... Giovanardi che a un certo punto nel pomeriggio dice: siamo pronti a fare un gruppo, ci sono oltre 40 senatori e gli scissionisti sono i falchi, io non vado a Forza Italia, questo l'aveva già detto. Insomma, Giovanardi diventa il grande artefice, sembra naturalmente, di un Letta bis o addirittura di una fiducia a questo governo Letta. 40? Sono 40? 30? 40? Ma guarda, la cosa pronti... sembra di una semplicità elementare. Mi dica. Nel PDL, noi siamo PDL, c'è una larghissima parte dei deputati e dei senatori che vuole rimanere dov'è, cioè nel PDL, non aderire alla nuova Forza Italia che si connota con una forza piuttosto estremista, non vuole cambiare il quadro politico nel quale abbiamo creduto e che riteniamo sia l'unico oggi indispensabile per mantenere l'equilibrio nel paese, vuole difendere Berlusconi dalla mascalzonata che gli stanno facendo al Senato della decadenza, e io non riesco a capire cosa vuol dire scissione. Poi guardo giù, voglio saltare, voglio imparare a volare. Ma tu ti rendi conto che diventa responsabile in queste ore persino Scilipoti, cioè diventa fondamentale persino Scili, il quale dice: sono pronto a morire per l'Italia. Pronto a morire per Berlusconi, oppure... Stiamo andando a fare una riunione, siamo pronti a morire per l'Italia. Ma mercoledì potrebbe... lei potrebbe anche... Io sono sempre con l'Italia, Scilipoti. Il falco va... Sto sempre con l'Italia, ma questo non significa che stare con l'Italia, la posizione giusta sia quella di andare in un senso o nell'altro, valuteremo attentamente. Io mi auguro, sino a questo momento, che ci sia la saggezza da parte. Scili è tornato pure, Scili. Ma valuteremo chi poi? Però bisogna ricordare che quelli che oggi esaltano Giovanardi come esempio di responsabilità, eccetera, no, eccetera, aspetta, sono gli stessi che lo... denigravano, che certo. gli sputavano in faccia, quando diceva certo. per esempio che Berlusconi è un perseguitato come Mandela e Havel. Certo. Sono di nuovo sul grande... sia Mandela che Havel, tutte queste persone sono state condannate sulla base di legittimi processi fatti dagli ordinamenti dei loro sistemi. Beh, a questo punto però, cari ascoltatori, 800 24 00 24, mentre sembra che possa rientrare, ma non si sa naturalmente, tutto in discussione, la crisi di governo, beh, che succede? Cosa succede? Ci sono voci anche di un'entrata in campo di Marina Berlusconi, nella nuova Forza Italia. A me dispiace per Cicchitto soprattutto. Aspetta, no, che c'entra Cicchitto? Cicchitto fosse così sarebbe... Perché è stato zittito. Ma ieri, ma tu sei indietro, ieri, Busi, vaffanculo per l'Italia, senti. Viva al 22% con Busi. Ecco. Busi è partito col gesto dell'ombrello. No, è carino, dai, poi a mezzanotte ci vuole, perché Letta dice dite una preghiera per l'Italia, ma io dico ma direi un vaffanculo piuttosto, che mi sembra meglio. Vabbè, allora adesso a mezzanotte andiamo a casa, basta, tre ore a qua. A mezzanotte su è scattata questa poltrona, c'ho i coglioni ribolliti, è troppo bassa. Allora, cioè non ce la faccio più, devo alzarmi. Altra comica, Franceschini, ministro, ovviamente quando Berlusconi cerca deputati per formare una maggioranza è corruzione, eccetera, eccetera, quando lo fanno gli altri, cioè è una cosa diversa, magari è scouting, magari è responsabilità, la stabilità, non siamo a caccia di voti, dice Franceschini. Che previsioni fa per mercoledì? Non le faccio, non siamo a caccia di voti, è un discorso molto chiaro, molto esplicito, di assunzione di responsabilità. E in fondo anche una domanda. Tutte le accuse, boschi e città. Però su tutti, ragazzi, a parte queste puttanate della politica, questi scossoni, su tutti, Checco Zalone. Checco Zalone. Senti, senti che si è inventato sulla vicenda Barilla, senti. Sì, sì, l'ho sentito quello. Sociedad contro l'ombra spettene otra sessuidad, quanta gente ve tormenta, quanta gente che ve assilla, perché ve gusta el macarón de la farilla. Los hombres sexual sono gente tal igual como nos, nos normal. Puedo rir, puedo lagrimar, puedo batere los manos, si le gusta un poquito l'ano. Los hombres sexual no te traen la sorbente, ma pero cuando le ali. Amado amigo mio, viene aquí da Checco a gustare il torsiglion della de Checco. Gli uomini sessuali sono gente tali e quali come noi. Va bene, ci sono o no questi 40 senatori pronti a fare un gruppo autonomo e metterla in quel posto a Berlusconi? Perché di questo si tratta. Alibaba e i 40 ladroni, capito? Alibaba e i 40. Sentiamo senatori. Dal senatore Luigi Compagna se lui è uno di loro. Buonasera, Compagna. Buonasera, buonasera. Come sta? Non c'è male, sono un po' teso. Più che per la vicenda del governo Letta, per la partita di stasera. Sono un vecchio tifoso del Napoli. A lei che gli frega del governo Letta? Basta che vince il Napoli, no? Senatore no, Compagna. No, diciamola questo, diciamola no, tutta, senatore Compagna, dai. Mi interessa più il Napoli di Letta. Cioè, se dovesse scegliere tra la vittoria del Napoli stasera con l'Arsenal e la sopravvivenza del governo Letta, cosa sceglie? Dica la verità, nient'altro che la verità, senatore Compagna. E allora mi faccia dire la verità. Io mi auguro che il sentimento nazionale del collega Scilipoti abbia qualche vibrazione stasera anche per la squadra italiana. No, che c'entra Scilipoti adesso? Io lei messo di messo che ce frega di Scilipoti, messo di fronte alla scelta vittoria del Napoli o sopravvivenza di Letta, lei che sceglie, senatore Compagna? Tosta, la vittoria del Napoli. Oh, la vittoria del Napoli. Viva la sincerità, viva la sincerità, che ce frega a noi, scusi senatore Compagna. Beh, se lei... Ma sì, se sopravvive Letta, non so, alla fine la vittoria del Napoli a Londra, ma vogliamo mettere, senatore Compagna? Dopodiché, con grande senso di responsabilità, voterò certo, anche quello, domani certo. per la sopravvivenza del governo. Dunque, lei ci sta dicendo che lei vota la fiducia al governo Letta. Ah, ed è rimasto, adesso devo ancora ascoltare il discorso. Vabbè, lasciamo, è discorso, ma che discorso? Tutto inutile, dai. No, guardi, le sembrerò un senatore dell'Ottocento e sbaglierebbe perché sono ambientato più nel Settecento, ma non solo ascolterò il discorso, ma mi sono iscritto anche a parlare in discussione generale. Pure! Beh, stanno già... Uno dei primi dopo il presidente. Senatore Compagna, già stanno preparando i picchetti per i suoi interventi, già stanno preparando le masse, sono in attesa di questo, della voce del senatore Compagna. Sto scherzando, ovviamente. No, sono tutti. A che ora sarà, senatore, questo intervento, questa prolusione? A che ora? Quella del presidente delle comunicazioni. No, la sua, no, quella di Letta, chi se ne frega. Non si sa. Il paese è in attesa. Mi mandi un SMS, perché io qualsiasi roba accada, stacco tutto e voglio sentire Compagna. Allora si sintonizzi su Radio Radicale, che è sempre abbastanza. No, che c'è tra Radio Radicale, non ci frega niente da Radio Radicale. Lo so, ma c'è il monopolio dei dibattiti parlamentari. Gli danno pure i soldi, senatore Compagna, pure tanti. Scusi un attimo, senatore, però io dico una cosa, no? Allora, lei voterà la fiducia, diciamo la verità. Ho l'intenzione di votare la fiducia. Cioè, però, Berlusconi, scusi un attimo, ma Berlusconi che ha fatto? Ha scherzato fino adesso, ha detto togliamo la fiducia, in una lettera mandata a un settimanale ha detto che praticamente che Letta e Napolitano sono inaffidabili, per questo pongo fine al governo Letta, adesso deve fare retromarcia. Come se ne esce da questa cosa? Retromarcia, diciamo, è retromarcia. Berlusconi ha fatto dichiarazioni in varie direzioni. Io ho ascoltato attentamente il discorso di ieri, perché era un blocco granitico. Però, sì, circa un'ora e mezza, però senatore Compagna, no? Deve fare marcia indietro a questo punto, diciamo la verità. Sì, o perlomeno deve fare dei passi indietro. Sì, deve fare dei passi indietro, ma se non li facesse, lei è pronto a fare parte di un gruppo autonomo al Senato? Già fa parte del GAL, ma che è sto GAL poi, senatore? Ma veramente noi ci eravamo iscritti al gruppo misto, poi nel gruppo misto si impossessò la sinistra di Stella. Vabbè, lei manco lo sa, che vuol dire GAL? Grandi autonomie e libertà. Ma lei manco sa a che cosa appartiene, no? Non gli importa nulla. No, non mi attribuisca queste cose, no, perché non è vero. Per una certa correttezza filologica, sì. Una soluzione elaborata dal presidente Grasso, perché di fronte all'espulsione di una componente, quella di centrodestra, dal gruppo misto, dice vabbè, facciamo due misti. Vabbè, ma sono cose parlamentari. Scusi un attimo, senatore Compagna, allora io voglio capire se non succederà, se ci dovesse essere una rottura, lei farà parte di un gruppo autonomo con Giovanardi, con i ministri, non so con chi, sì o no? No, resterò nel gruppo GAL, dove c'è sempre stato assicurato. Ma magari non esisterà più il gruppo GAL, che ne sa, magari molti di quelli faranno parte di questo gruppo, perché non va in questo gruppo nuovo? No, mi scusi, non voglio fare il custode del regolamento del Senato, anche se sono affezionato. Le zanzare di casa mia si nutrono di me. È ancora a casa. Protagonista del giorno, Carlo Giovanardi, diventato improvvisamente l'idolo di tutti quelli che vogliono la sopravvivenza del governo Letta, da incendiario quale è stato sempre considerato per le sue dichiarazioni sui gay, per le sue dichiarazioni sui vari casi Aldrovandi, eccetera eccetera. Insomma, diventa responsabile, diventa quello che salva i mercati, diventa quello della stabilità, perché per primo se ne esce dicendo c'è un gruppo disposto a sostenere Letta contro gli estremisti di Forza Italia, eppure alla fine contro Berlusconi. Tutti quelli, i ministri, Alfano, Quagliariello, la Lorenzin, Lupi, Formigoni, Sacconi, Giovanardi, eccetera, eccetera, eccetera, i primi nomi che vengono in mente, Cicchitto, ci troveremo e insieme discuteremo e approfondiremo anche le modalità con le quali si devono affrontare i prossimi passaggi politici. Allora senta, sembra poesia, la cruda verità, se mi guardi ti giuro mi confondo. Seguendo i falchi ci si fa male. Chiudo gli occhi, mi illudo di volare. Ma non è Berlusconi che è una persona intelligente e capisce il tipo di orientamento che c'è nei gruppi parlamentari, anche nei partiti, i sondaggi li vede anche lui, le reazioni del mondo economico le vede anche lui, le ha viste, quindi come sempre con grande intelligenza e con grande senso pratico capisce che quella strada dove eventualmente i falchi lo avevano portato è una strada che portava a danneggiare l'Italia, il PDL e anche se stesso. Chiudo gli occhi, mi nudo di volare, ma voli solo tu da me, le zanzare. E con lui e con Carlo Giovanardi anche il senatore Luigi Compagna, che abbiamo qui, che ha detto che domani voterà la fiducia al governo Letta. Senta, senatore Compagna, ma lei verrà di cui fino a qualche istante fa tutti noi ignoravamo beatamente l'esistenza. Ma no, ma è un vecchio senatore di quelli storici, perché devi dire così? Ma noi gli vogliamo, perché noi gli vogliamo tantissimo bene, perché salverà il governo Letta e la Zanzara è per la governabilità. Si sente, caro senatore Compagna, una specie di salvatore della patria? Beh, certo. Di piccolo salvatore della patria? No, assolutamente no. In Senato ognuno deve votare liberamente, sì, cercando di fare... Però lei è stato eletto col PDL, il leader del PDL è Berlusconi, e lei non si sente un traditore, senatore Compagna? Ma assolutamente no. Ma come no? Ho l'impressione che lo stesso Berlusconi domani possa votare fiducia al governo. Cioè, proprio Berlusconi, lui, come si dice in francese, lui stesso Berlusconi, non credo. Sì, dai, ho la sensazione che, con tutto il rispetto per la leadership del vecchio amico di sempre, Carlo Giovanardi, sì, e gli alfaniani, diciamo così, sì, abbiano nella giornata di oggi cercato di trascinare tutto il centrodestra. Ho capito, ma come se ne esce? Indietro. Ma Berlusconi fino a 2 secondi fa diceva che questo governo era finito, che lo vogliono in galera. Dice un'altra cosa. Scusi, compagna, come se ne esce? Berlusconi... Compagna, c'è stata una notizia. Viene sputtanato in maniera clamorosa Berlusconi da questa vicenda. È finito, morto. Guardi, l'espressione morto so che ha molto successo nella vostra radio, a me non piace usarla. No, ma morto politicamente, dico, politicamente. Scusi, è lo stesso Berlusconi, dice, non hanno fermato il mio omicidio politico. Letta e Napolitano sono inaffidabili. Dopodiché, vota la fiducia a Letta. Mi sembra una cosa ridicola, su. Cioè, è comunque una roba clamorosa, o sbaglio? Beh, ho l'impressione però che se Alfano voleva dimostrare di avere le palle, il quid. A un lessico meno zanzaresco, assolutamente. Nella giornata di oggi l'ha dimostrato. Ha dimostrato una certa grinta sulle sue posizioni. Mi era parso di capire, poi voi siete più informati di me, comunicati e cose. Ma scusi, però... il mio cuore è già a Londra per il Napoli. E a un certo punto Alfano ha detto: vorrei che tutto il centrodestra voti la fiducia al governo. Sì, ma lei oggi dovesse scommettere, diciamo, una parte del suo stipendio, scommetterebbe il voto di Berlusconi favorevole al governo? Sì, perché no? Tante volte l'ho visto votare a favore. Pensi, l'ho visto votare addirittura a favore di provvedimenti del governo Monti che gli piacevano ancora meno. Domani non è che noi votiamo la fiducia su un provvedimento, è una specie di fiducia. Vabbè, per non aprire la crisi di governo. Se c'è il voto di sfiducia, invece il capo dello Stato... meglio Letta che niente, questa è la verità, no? Compagna, meglio Letta che niente. Ecco, io non penso che Letta sia Cavour, e forse neanche Giolitti e neanche De Gatti. Però meglio Letta che niente. Ho l'impressione che sarebbe irresponsabile in questo momento aprire una crisi di governo. Poi posso sbagliare, sono aperto ad ascoltare opinioni diverse. D'altra parte, lei era quello che voleva dimezzare la pena del concorso esterno in associazione mafiosa, o sbaglio? Da un lato ha ragione, da un lato sbaglia, perché io volevo tipizzare il reato, volevo che il reato entrasse nel codice e quindi con delle sanzioni previste. Appunto. Se mi vuole no, è troppo lunga la questione, comunque è troppo lunga, ormai è una situazione superata, tanto non ci sarà mai, no, questa cosa qua. Va bene, senatore Compagna. Auguro invece al mio paese di sì. La ringrazio, forza Napoli, forza Napoli. Arrivederci. Sono come zanzare. Rocco da Roma, buonasera Rocco. Buonasera carissimo, non occorre fare i complimenti. No, Rocco, vada dritto e abbassi il volume, altrimenti la strozzo. Per favore, dire alcune cose, perché è solo un po' di rabbia dentro, purtroppo, ma io non sono l'unico sicuramente. Volevo solo dire poche parole, giusto per far capire a tutti i politici che stanno facendo del male alla gente. Ma che vuol dire? Che vuol dire? Stanno facendo del male alla gente. Ma chi? I politici chi? I politici, dicevo, tutti i politici in genere. Tutti. Non si rendono conto che ogni cosa che viene fatta, pochissime cose vanno a favore dei lavoratori, Vabbè. A favore della gente. Rocco, che non sentiamo, sentiamo Domenico da Roma. Domenico. Pronto? Dica. Niente, io chiamavo perché quando prima hai detto che, cioè, insomma, quando paragoni Franceschini a Berlusconi. No, non ho fatto nessun paragone. Ho detto non siamo a caccia di voti, nel senso che i voti quando si fa scouting in altri partiti, in alcuni casi è compravendita. Lasciamo perdere le inchieste penali. In altri casi invece si tratta di responsabilità. Questo dicevo. Comunque, insomma, io sono disperato, non so più cosa fare. La zanzara è quell'odioso insetto che non mi fa dormire la notte, perché affonda il becco su di me. Ai ai, mi ha beccato, ai ai, mi ha beccato. Questi due disgraziati pidocchiosi non solo si divertono, ma li pagano pure per divertirsi. Ma lei gira sempre intorno a me e balli il suo twist, e balli il suo twist. La zanzara twist, una botta col faccio e poi all'altro, una botta nel braccio e poi all'altro. Prendila, prendila, scherzala, scherzala, ti ho beccato. Lui è stato, lui e tutti i Berlusconi, e tutto il berlusconismo, che non dimentichiamolo, è tanto di destra quanto di sinistra, è stato la vera lebbra di questo paese. Il paese è stato scavato, sfruttato e annientato dall'interno, e questo è quello che abbiamo. La zanzara è l'imprendibile insetto che le più volte non lo vedi mai. Oh, il senatore Malan non solo ieri ha fatto il tour di tutte le televisioni, è il prototipo del faccionismo, il prototipo del presenzialismo televisivo. Ma che fanno poi dalla mattina alla sera se stanno sempre in televisione? Cosa diavolo fanno? Malan, dopo tutta una giornata passata nelle varie televisioni, da Agorà in poi, si è presentato ieri sera anche a Linea Notte, no, ti giuro, e beh, dai, a Malan, e dai. Dai. Allora, saluto intanto Lucio Malan, senatore del PDL. Bentornato a Buonasera. Notte. Senta, oggi nessuno ha parlato, perché? Per rispetto, per paura, per... qual è la sua impressione? Allora è vero che nessuno ha parlato quello tutto il giorno. Ha parlato lui sempre. Nessuno ha parlato, non è vero, ha parlato lui sempre dalla mattina alle 8. Ma pensavo questo, signor Cruciani, ma a quel punto non era più utile rimandare la stessa dichiarazione di Malan del mattino in tutti questi contenitori? Cioè, cosa avrà detto di nuovo dalle 8 del mattino a mezzanotte? Chi ha detto di nuovo Malan? Aspetta, non è finita. Allora facciamo un po', ricapitoliamo un po' la situazione. Le avventure del senatore Lucio Malan. Allora, abbiamo iniziato la mattina con Agorà. Dopodiché l'aria che tira sulla 7, Sky TG24 nel pomeriggio, la sera Linea Notte su Rai 3, dunque dalle 8 di mattina fino a 1 di notte. Questo è il punto fondamentale. Dunque non si fa un cazzo tutto il giorno, praticamente, tranne la televisione. E a un certo punto, ma non è finita, interviene a che ora? 1 mattina, alle 7 circa di mattina. Del giorno dopo, alle 7 di mattina, 1 mattina, ti giuro, guarda. No. La riunione di ieri, dice il Corriere della Sera, è stata un monologo di Berlusconi. È così, onorevole Malan? Ha parlato soltanto il presidente Berlusconi. Dai, su, non è possibile, dai. Non è possibile. Dai. Le avventure televisive del senatore Malan. Fatemi risentire cosa, dai, fatemi risentire Checco Zalone, la versione spagnolo della vecchia canzone sui froci, sugli omosessuali, riadattata al caso Barilla. Como es malada esta sociedad contro l'hombres que tiene otra sensuidad. Cuánta gente ve tormenta, cuánta gente que ve asila, porque me gusta el macarón de la Barilla. Los hombres sexual son gente tal igual como nos normal. Puedo rir, puedo lagrimar, puedo bater los manos, pure si le gusta un poquito la no. Los hombres sexual no te traen la sorbente, ma pero cuando le ali. Amado amigo mío, viene a chi da checco a gustare il torsiglion della deserco. Gli uomini sessuali sono gente tali e quali come noi, noi normali. Sanno piangere, sanno ridere, sanno battere le mani, proprio come noi persone sani. Gli uomini sessuali non ci avranno gli assorbenti. Ecco quello col codino, va, Pannella, quello col codino. In Italia sciolgono le camere per non fare i referendum, ma vanne, e basta con sti referendum, sciolgono le camere per non fare i referendum. L'Italia, i politici terrorizzati dai referendum, ma i politici sono terrorizzati di perdere i soldi, di perdere la poltrona, di perdere il seggio, non dai referendum, ma Pannella, sveglia! Non capisci un cazzo! In Italia per 5 legislature si sono sciolte le camere per impedire il referendum. Adesso, se questa cosa va bene la presentazione, faranno la crisi per poter fare le elezioni e così i referendum scatteranno al 15. Ma non è vero, non gliene frega niente a nessuno. Perché qualcuno non glielo dice però? Scusa, David, perché qualcuno non glielo dice chiaro e tondo? Ai politici italiani non frega un cazzo dei referendum. Gliene frega solo di mantenere la poltrona, lo stipendio, le prebende, gli strapuntini, eccetera, eccetera. Dei referendum radicali non frega una mazza. Non frega nulla, anche se dovessero passare, poi fanno una legge il giorno dopo e non gliene frega nulla, cioè non gliene frega niente. Ah, Alberto da Verona. Ma chiamiamolo un attimo per dirglielo. Ma no, che chiamiamo? Dai, Alberto da Verona. Sei stato Cruzzelli? Mi sente? Sì, sì, Alberto. Niente, telefonavo per Mala, ma mi ha già preceduto tutto lei perché l'ho visto appunto all'inizio notte stanotte. E tutte le varie trasmissioni che ha partecipato a ieri, manca la Zanzara, poi ha completato il quadro, dico. No, qui non viene Zanzara perché l'abbiamo preso per il culo una sera sulla vicenda dei suoi assistenti. Concludo con una nota, allora ho visto sull'ANSA che sono tutti d'accordo di chiamare Silvio il figlio di Parenzo. Non ho capito, come lo va Silvio? Vuoi fare, vuole fare un gruppo su Facebook di appoggio? No, no, è già uscita un'ansia che tutti sono, tantissima gente d'accordo per chiamare Silvio il figlio di Parenzo. Ma che tantissima gente? Ma lei non mastica queste cose. È d'accordo? Ma lei Parenzo è d'accordo con questo? Ma lei non capisce, siccome non mastica queste cose, è uscita un'ansia, cosa sa lei? Cosa non mastica di ma questo? Ma non si può scattare a fare una battuta? Certo, vabbè, abbassi la radio, qualcuno c'ha la radio alta, su, dai, Tony da Varese, buonasera. Alberto, non capisce mai nulla lei. Tony da Varese, dai, forza. Ciao, ciao, sono Tony. Dimmi. Che cazzo ti devo dire? Come che cazzo mi devi dire? Mi hai chiamato tu, mi hai chiamato, abbi pazienza. Mi hai chiamato dopo un'ora, ho fatto in tempo a scaricare due furgoni. Vabbè. No, comunque no, vabbè, una cosa la volevo dire. Come cazzo fanno senza Berlusconi dopo? Adesso si devono prendere tutte le responsabilità quelli di sinistra, perché non hanno più a chi dare la colpa se questo si leva di mezzo. Ci hanno pensato i vari Fassino, che tra l'altro non ci capisco un cazzo quando parla Fassino. Ma che proprio c'entra Fassino, che è il sindaco di Torino? Ma fa il sindaco di Torino, non conta più nulla. Ma perché non torni a scaricare il furgone anziché dire stronzate? Io non conto nulla, lo so, se non farei sta vita se contassi qualcosa, però almeno la mia la volevo dire, no? Vabbè, ma Tony, ma tranquillamente. Ma ho capito, ma Fassino, ma cosa c'entra Fassino? Vabbè, Terenzio da Biella, dai, non c'entra nulla. Tony, dai, Terenzio da Biella. Oh, buonasera Parenzo, buonasera Cruciani. Ciao fratello. Allora? Beh, tre veloci. Fratello, dov'è pizza? Fratello, aspetta un attimo, aspetta che c'è Ciao Belli sulla Zanzara. Mettetemi Ciao Belli, Mettetemi Ciao Belli, dopo. Terenzio, allora? Allora, tre note. Quando la nave affonda, i topi scappano. E questo è PDL. Secondo, ringrazio il governo per l'aumento dell'IVA e tutti i disagi che ci ha creato. E poi saranno d'accordo con me milioni di italiani. Io spero che il buon Dio se li prenda tutti presto e con morte dolorosa. Ma chi? Chi si dovrebbe prendere? Governanti. Ma che vuol dire governanti tutti insieme? Come si fa a dire certe cose? Come si fa? Che può dire? Che il buon Dio. Lei vorrebbe accoppare queste cose, vi vengono proprio da dire. Lei vorrebbe accoppare tutti. Sì, sì, volendo. Mi piacerebbe tanto. Ah, le piacerebbe cosa? Prendere una pistola e sparare? Cosa le piacerebbe? No, no, una volta c'erano i terroristi che facevano un bel lavoro. Facevano un bel lavoro i terroristi. Sì, peccato per le forze dell'ordine, ma almeno qualche politico andava. Ma lei dovrebbero... Abbiamo le palle tutte piene. Ma lei dovrebbero fatto. Metterla in galera, lo sa, sì? Sì? Sì, sì, lei dovrebbero prenderla e metterla in galera direttamente. Per apologia di terrorismo, cioè. Lei pensa che il terrorismo facevano bene i terroristi ad ammazzare i politici? Io penso che questi governanti se ne dovrebbero tutti andare in un modo o nell'altro. E al posto loro chi ci viene, invece? Si fanno delle altre elezioni, si fanno delle altre persone, si farà qualcos'altro, ma questi qua basta. Dovremmo farci governare dalla Svizzera. Ma io non capisco perché alcuni vengano alla zanzara, perché voi siete degli stronzi, due amichevoli stronzi che fanno bene il loro mestiere, quindi avete rovinato più carriere voi, però la zanzara ha fatto parecchie vittime. Il sottosegretario ai rapporti con il Parlamento Sabrina De Camillis, PDL, in passato consigliere regionale e deputato per alcuni mesi, prendeva il doppio stipendio. Oggi è sottosegretario ai rapporti con il Parlamento dopo essere stata trombata alle elezioni. Si scontra con l'inviato di Report Iovene. Sentite. Posso chiederle se è disponibile a restituire lo stipendio che ha preso indebitamente come consigliere regionale per 5 mesi? Non si può chiedere? Perché no? Non è pertinente. Vabbè, posso chiederle se è disponibile? Non c'entra nulla, non c'entra. Non risponde. Lei quanto guadagna? Secondo lei a stare davanti al Parlamento c'è gente che lavora dalla mattina alla sera e guadagna 1.000 euro. Secondo lei è adeguato il suo stipendio? Certamente. Ah sì? Per molta gente no, per molta gente guadagna troppo. Ma che c'entra lo stipendio di quello, Iovene? Quello ha preso 2 stipendi per qualche mese come consigliere regionale e come deputato del PDL, e mo si attacca lo stipendio di Iovene, l'inviato là di Repolo. Una cosa pazzesca, dai. De Camillis, ancora. Oggi per stare qui, quando guadagna di trasferimento? Lei per venire qui oggi, quando prende di trasferimento? Lei mi risponda a me, quando prende di trasferimento oggi e di indennità per stare fuori sede? Ma cosa dice? Ma come cosa dice? Lei oggi sta fuori sede. Ma lo sa che la RAI è una televisione pubblica? Ma lo sa che la RAI è una televisione pubblica? Lei risponda ai cittadini di quello che lei guadagna. E il sottosegretario, purtroppo ancora per chissà quanto tempo, perché il governo pare che sopravviva, il sottosegretario Sabrina De Camillis si attaccò allo stipendio, alla diaria, al rimborso del signor Iovene. Iovene, andiamo su, e dai, dai, su. Dai. Una parola tu mattina te più vive, ci dovresti non dormire. Siamo qui e allora andiamo a Forlì. Alessandro, buonasera. Ma con che faccia sta gente torna a casa poi? Alessandro, Parenzo, se devi dire queste stronzate, ciao. Alessandro, vai. Niente, volevo prendere un po' le difese del senatore Malan, che me l'ha massacrato prima, sinceramente. È così un bravo senatore, sì. Un ottimo parlamentare. Se è andato in televisione la mattina, il pomeriggio e la sera è semplicemente perché l'hanno invitato, perché sa cosa dire, a contrario di tanti parlamentari, soprattutto di centrodestra. Ma lei chi è, e suo fratello? Non vedo cosa c'è di male a fare il parlamentare. Lei chi è, suo fratello, il segretario, a parlare in televisione, il portavoce, chi è lei? Delle varie argomentazioni che ma lei chi è, il portavoce, il segretario, chi è lei? No, non sono un portavoce, sono un suo elettore. Politica, sì. Per diletto e sì. Anche per passione. Però guardi, nessuno scusi un attimo, Alessandro. Alessandro, nessuno. Vabbè, questo sta parlando da solo. Nessuno ha parlato degli argomenti utilizzati da Malan nelle varie interviste. Semplicemente si osservava che uno che sta dalle 8 di mattina fino a 1 di notte nelle trasmissioni non c'ha lavoro da fare in Parlamento. Può succedere. Sì, può succedere. Chissà perché poi stamattina si è replicato alle 7. Vabbè, comunque chi se ne frega. Teodoro da Latina, buonasera. Buonasera. Dica. Cioè, io prima ascoltavo... Non si sente nulla, Marco da Perugia. Volevo dire solo che lei, Cruciani, è un servo. Di che? Un servo vero. Di cosa? Di cosa? Di tutti i politici, di tutti i poteri forti, forte con i deboli. Poi tutti. Chiudo il telefono a chi magari lavora in fabbrica, che vuole dire qualcosa. Ma guarda, perché dovrei chiudere il telefono a chi lavora in fabbrica? Scusi, lei dove lavora, per esempio? Io sono titolare di una fabbrica. Titolare di una fabbrica, benissimo. Allora parli pure. Non, lei non è io operaio, posso parlare. Solo che volevo solo dire che prima c'è stato un intervento di uno che gli ha chiuso il telefono in faccia solo perché ha detto che i politici sono tutti, fanno il male della gente. Che dopo aver detto che voleva sparare a tutti i politici, che i politici sono il male assoluto, uno a un certo punto dice vabbè, dopo che succede? Dopo? Allora, dopo, siccome no, secondo me io non devo sparare a nessuno, non devo fare niente, però secondo me io lavoro 15 ore al giorno e questi politici danno la prova che non sono capaci di benissimo fare il loro lavoro. Bravo Marco, perché ha detto quello che ha detto. Dunque, che cosa facciamo? Io, sai, l'idea mia è che praticamente finché un operaio prende 1200 euro... Sì, ma la sua idea qual è? E la fabbrica le fabbriche pagano il 60-70% di tasse, questo paese non si bene risolve. Ha detto quello che doveva dire, a risentirci. Samuele da Venezia, buonasera. Cruciani, svegliati! Vai. Cruciani, svegliati! Samuele, stai Cruciani, tranquillo. Svegliati! Cruciani, vabbè, svegliati! Sfumiamo questo imbecille, su. Sfumiamo questo imbecille che si è fatto di crack. Caro Samuele, lei si è fatto di crack? No, Cristiano. Scusa? Ma che cosa mi fai ascoltare? Focus Economia, l'ho già ascoltato, è la fabbrica, è questo. Ma fammi le cose serie, fammi sentire lacrime e sangue, dammi un altro Barilla, un Buitoni, basta con le cagate, con le cose mosche del compagna che mi fa addormentare, di quello della fabbrica del 70% di tasse, ma basta. Che cosa vuoi? Fammi fare qualcosa di più sanguinoso, di più... Chiamami quella, la responsabile dei vestiti della Camera, che spendono 344.000 euro per vestire i pinguini della Camera. La responsabile dei vestiti, non esiste la responsabile dei vestiti della Camera, caro genio dell'umanità, non esiste la responsabile dei vestiti della Camera, ma chi è? Però hai ragione Samuele, ci vorrebbe lacrime e sangue, assolutamente. Fammi divertire un sangue po', che merda. Non ti tieni i coglioni tutto il giorno di ste robe, l'economia e lo spread e questo e quest'altro. E poi spiegami come fanno a spendere 344.000 euro in vestiti. Beh, sono i vestiti dei commessi, sono i vestiti... Ma che cosa vuoi, tesoro? Spiegami, che cosa vorresti sentire, amore mio? Spiegami, tesoro. Io ti spiego che un vestito bello ed elegante e sartoriale fatto a mano costa 1.500 euro. Ma quanti cazzo sono quelli in Senato, in Parlamento, che si devono vestire con 344.000 euro? Ma saranno i commessi, ma spendono e spandono, sicuramente spendono di più rispetto a una normale gestione, chissà l'appalto a chi va, a chi non va, Samuele, ma hai ragione. Fammi divertire di più. Ciao Cruciani, lacrime e sangue, che è finita la fascia protetta. No, sangue e merda, no, quella, sangue è merda. Quella è un'altra cosa. Pasquale da Imbassago, la sera vuole la battaglia e vuole sangue e merda. Sangue e merda, chiaro? La zanza, la zanza, la zanza, la zanzara stronza, che gira, che ronza, va zonzo tranquilla nella stanza. La zanza, la zanza, la zanza, la zanzara danza. Io sono pietanza per la zanzara nella stanza. Ci sono delle radio apposta che si occupano solo di questo. Sì, un programma molto bello, si chiama La Zanzara. Sì, colleghiamoci. Lo sentiamo un estratto. Penso se ne siano occupati oggi. Lui è Bruciani della Zanzara. È una registrazione? Fedele. Vabbè, ma non si può mandare un'altra radio su Radio DJ? Sono amici. A me piace molto questo anche programma. Lui. Oggi 1 ottobre l'IVA aumenta dal 21 al 22%. Giuseppina dalla Dispoli, dica. Che dobbiamo dire? Che ci hanno rovinato, che ci stanno a far morire pane, guardarsi i maledetti, e rimortacci loro, e chi ce l'ha messa là sopra? Non sia maleducata, signora, l'aumento dell'IVA, forza, ha già fatta la spesa? La spesa? Ma chi c'ha? Già che manalire per fare la spesa? la faccia finita a piatto il culo la gente che saltano a vedere che ci potremmo comprare manco una fettina. Vabbè, ma non lei chi è? Ma non sei cazzi con me, io so Bruciani, le stavo a chiedere l'aumento dell'IVA come stai ripercorso. Che cazzo sei sto Bruciani? Vabbè, ma non si arrabbi con me, se ne faccio una ragione. Io avevo un grande stabile, ero stabilmente sicuro. Claudio da Milano, eccoci qui. Ciao Bruciani, buona serata. Cosa di dirla, vi adoro, ma cazzo. Cosa di combini? Mi vai su Rete 4. Te che sei grillino, quell'altro che è socialcomunista, mi dai su Rete 4. Dai, che delusione. Scusami. Guarda e poi dai il tuo giudizio. Ma perché mi devi fidare così? Io vi volevo bene, siamo qua in Via Negroli a Milano, zona di Barba Orrendi, e poi scopro che vai su Rete 4. Dai, guarda e dai un giudizio. Basta, tutto qui? Certo, cosa vuoi che ti dica? Vabbè, poi mi ripassi dopo che ti ho visto, Sì, guarda e dai un giudizio, che ti frega? Rete 1, Rete 4, Rete 5, Rete 25, Rete 44, è tutto uguale. Gianni da Bologna, è uguale. Gianni da Bologna, buonasera. Buonasera, accrocia. Aspetta un attimo, fermo lì. Well now, little mosquito, there must be. Well, some reason for you that I just can't see. Well, there is. Beh, un gran ritorno alla Zanzara, caro Parenzo, grande ritorno alla Zanzara, finalmente con noi il sottosegretario alle infrastrutture e ai trasporti Vincenzo De Luca, nonché sindaco di Salerno, buonasera. Buonasera a voi, cari confratelli. Come andiamo? Confratelli. Aveva un po' nostalgia, dei confratelli, dei confratelli della Zanzara. Rimane sempre il doppio incarico, caro, a te lo perdoniamo. Però noi siamo molto dispiaciuti di questa cosa, caro De Luca, siccome siamo... Anche voi siete fra quelli che soffrono. Noi siamo tra quelli che... soffrono mi sembra una cosa un po'... Non siamo come quelli del fatto che sono ossessionati dal suo doppio incarico. No, proprio no. Anzi, lei non immagina che godimento mi dà questa loro sofferenza. Perché? Siamo quasi pronti a sostenerla, eccezionalmente. Se ci dà le argomentazioni giuste, siamo. Perché gode tanto di questa ossessione, di questa sofferenza di quelli del fatto per la questione del suo doppio incarico? Perché non ho capito perché soffrono, gente sfaccendata, non ha niente a fare. Beh, siamo persone che dormono poco e lavorano molto, possiamo fare tutto. Nel senso che lei dice basta dormire poco e uno riesce a fare il sindaco e il sottosegretario, dice lei, no? No, la cosa è tutto un grande imbroglio, perché come sapete l'unico che sta rispettando le previsioni di legge sono io, avendo attivato una procedura prevista per legge. Però, che poi i tempi non siano quelli previsti da altri, beh, questa è una cosa che mi turba. Però, un po', ma niente. Scusi, caro amico De Luca, resta un fatto, al di là delle questioni così da leguley, no? Un po' da procedure, eccetera. Certo. Uno c'ha il doppio incarico, è sindaco ed è viceministro, lei che è sottosegretario, viceministro, non mi ricordo. Viceministro, senza deleghe, peraltro, che ancora le deleghe non gli hanno date. Allora, io voglio dire... No, va bene, d'accordo, però uno a un certo punto dice, vabbè... E che fa allora tutto il giorno se non c'ha le deleghe, poveretto? Scusi, De Luca, lei non fa niente al ministero allora tutto il giorno, senza deleghe? No, come tutte le cose della vita, uno il lavoro se lo cerca, non c'è bisogno di avere le medaglie, però dal punto di vista formale, l'iter di nomina va completato. Perché lei non si dimette da sindaco oppure non si dimette da viceministro? Perché riesce, lei dice, a fare tutte le cose. Se ti dimetti da sindaco si scioglie il consiglio comunale e si paralizza l'attività amministrativa di tutta una comunità. E questo ovviamente sarebbe un atto di pura irresponsabilità. Da viceministro, perché in pratica mi è stata proposta questa sfida, essere in un settore operativo l'unico rappresentante del Sud. Sì. E sto lì per questo, per rappresentare gli interessi legittimi del Sud e per farlo a modo mio, con la mia libertà, contro le burocrazie, contro i gruppi però, di potere. Ho capito, però... Se è questo, bene, se no, vi saluteremo. Però, caro De Luca, io per carità, io confido molto nella sua capacità lavorativa, il fatto di non dormire la notte. Resta il fatto che fare il sindaco di una città come Salerno è importante e stare pure al governo è un impegno che secondo me non si può tenere, cioè oggettivamente non si può tenere. Lei dice... Può anche, per la verità, si poteva tenere, guardi che fino a 24 ore prima della mia nomina la legge consentiva lo consentiva in Francia fanno i presidenti del consiglio, e la cosa sa perché è benefica, perché quando vai in un ministero perdi la testa o perdi il contatto con la realtà, almeno mantieni il contatto con la realtà. Comunque, per cui fosse per lei, fosse per lei rimarrebbe tranquillamente a fare tutte e due, diciamola tutta. No, diventa faticoso a un certo punto, poi si porrà il problema di una scelta. Ma quando è che? Quando nel rispetto delle regole. A questi del fatto, che gli vogliamo dire? Lavorate di più, lavorate di più. Che gli dobbiamo dire? Lavorate di più e che Dio vi dia la malaventura. Come la malaventura? Come la malaventura? Perché che gli devo augurare? Lunga vita e una fine come quella di San Gregorio Armeno. E che ha fatto San Gregorio Armeno? È stato informatevi, non mi fate dire. È morto malissimo con tutti i dardi nel San Gregorio. Ah, così. Ma come mai ce l'hanno dato? Cioè, ogni volta le pongono questa domanda, però da un certo punto di vista sono anche, come dire, no? Sono anche puntuti, sono testardi, no? Insistono ogni volta. Allora il doppio incarico di Luca la inseguono dappertutto, no? Ha visto che bello. Ma che gioia, guardi, ma non immagina il godimento che mi deriva da questa sofferenza. Lei deve dare cosa, guardi, se potessi prolungarla per 10 anni questa situazione sarebbe il massimo di godimento. Però è anche vero che deve dare 1.000 euro a Travaglio, lei, mi sembra, Ah, no? Già, devo dare 1.000 euro allo sfessato valoroso combattente per la libertà che lei ha citato, si è ritenuto di non poter essere chiamato pipì o qualcosa del sfessato, genere. Sfessato, vi ricordo. Come sfessato, quindi per cui, ma quando gli dati 1.000 euro? Gliel'ha già dati 1.000 euro, credo, no? No, ma che stiamo parlando? Ma c'è la cassazione. Senta, però anche se sono 1.000 euro di antibiotici, anche due, il resto no. Però scusi, alla fine se io dovrò dare 1.000 euro per lei, non è che sono, diciamo. Le posso dire una cosa un po' seria, sai che diceva Piero Gobetti, che era il mio maestro? Che diceva? La logica del moralismo è sempre utilitaria. Dietro questi moralisti a 18 carati, scava, ci sono sempre cose utilitarie, interessi molto poco, come dire, collocabili nel contesto ideologico. Per cui, secondo lei, dietro il moralismo di Travaglio cosa c'è? Un interesse di denaro? Che ne so. Sono piccole cose. Piccole cose. Comunque, Gobetti era uno. Un maestro. Ma ha chiesto poi scusa De Luca al suo, come dire, suo ministro, adesso mi scusi di questa definizione, professore, cioè Lupi, quando ha detto che effettivamente è vera la cosa. Io devo dire che ho passato 3 giorni a sganasciarmi dalle risate. La somiglianza con il signor Lupi, oggi una delle colombe che potrebbe rompere con Berlusconi, che assomiglia alla figlia di Fantozzi, diciamo la verità. Ha chiesto scusa poi o no? Ma non ci pensa nemmeno lontanamente. E che devo chiedere scusa, è la realtà. È come se uno chiede scusa, uno mi dice guarda che sei il negativo di George Clooney, io dico mi devi chiedere scusa. È la verità, apparteniamo agli infelici, sia io che lui, dai, una battutaccia, ma niente di più. No, le devo dire che gli ho telefonato ieri, dopo le sue dimissioni, gli ho espresso un po' il mio rispetto, la mia solidarietà fra persone civili al di là delle anche perché se resiste lui, resiste pure lei là, per cui no, abbiamo esistenze indipendenti, guardi, non ci confondiamo adesso, non, senta, rimane fermo ovviamente il mio dissenso radicale rispetto a Lupi per quanto riguarda le scelte del ministero, quello non ma entriamo, fermo restando il dissenso radicale dal punto di vista dei rapporti civili, credo. Senta, ma Berlusconi alla fine come è finito? Cioè, sembrava, capito, questo rapporto tra il vice ministro e il ministro. Beh, un rapporto inesistente. Lei non ci ha mai parlato con Lupi, diciamo, entra la mia. No, ci abbiamo parlato. Lo considero un perfetto cretino, mi pare. Scusi un attimo. Com'è un cretino Lupi? Chi è? De Luca, De Lupi è un cretino. No, ma non mi permetto. No. Non mi permetto, è un interlocutore che fa il suo gioco politico e cerca di tenere in mano quanto più possibile. Come no? E questo non è possibile. Diciamo che sono il meno adatto per fare l'attività di subalterno. Ecco, appunto. E gli è capitata male pure a lui. Però scusi, non solo ai famosi giornalisti. Scusi un attimo, ma io voglio dire una cosa, ma ha visto quello che è successo con Berlusconi, che pare che sarà costretto a una fragorosa marcia indietro, De Luca, no? Fragorosissima marcia indietro, può darsi, no? Lei per chi non fa il tifo? No, sinceramente qui andiamo avanti a minuti, io mi auguro francamente, parlando sì, per una volta seriamente, che sì, prevalga il senso di responsabilità, che abbiamo un paese che è in una condizione drammatica, veramente la gente ha disperazione. Cioè, immaginare che in queste condizioni facciamo colpi di testa o ricatti politici è veramente il massimo di responsabilità. Dunque, mi auguro davvero, a viva di tutto, che prevalga un senso di responsabilità nazionale. Poi ci sarà tempo per il distinguo. Scusi un attimo, ma Berlusconi secondo lei deve decadere? Me lo dica sinceramente. Guardi, Berlusconi, no, io non ho nessun imbarazzo, io sono contro gli ideologismi. Appunto. E Berlusconi ha fatto un grande errore. Dopo la sentenza della Cassazione avrebbe dovuto tacere e avrebbe dovuto dire: io rispetterò le sentenze pur non condividendole, punto, mi rimetto alla valutazione di tutti gli altri organismi. Se avesse fatto questa scelta avrebbe creato un clima di serenità tale che sarebbe stato possibile anche nella giunta per le autorizzazioni avere una posizione di maggiore distensione e rispetto, perché io credo che abbia diritto anche a una verifica di costituzionalità della legge. Ecco, fosse per lei la legge può tranquillamente andare alla Corte Costituzionale. Assolutamente, non vedo perché impedire a uno che deve difendersi di difendersi fino in fondo. Siamo qui la Zanzara, caro Parenzo, in diretta da Roma, in collegamento non so da dove, credo da Salerno, forse anche lui da Roma, Vincenzo De Luca, vice ministro alle infrastrutture, ma soprattutto grande re di Salerno. Una volta ebbe a dire a Salerno mi votano anche le pietre, caro Parenzo, le pietre. Miti qui alla Zanzara, grande lettore del Fatto Quotidiano. Beh, no, quello no, quello no, grande lettore del Fatto, forse per farsi due risate ogni tanto. Chi? No, lei che dice grande lettore del Fatto Quotidiano, forse per farsi due risate ogni tanto, o no? Dai, passiamo a un'altra cosa. Cioè, avete altri settori del giornalismo italiano valoroso di cui parlare? Come lo usa? Cioè, immagino, quella carta di quel giornale, no? La carta di quel giornale, del Fatto, no? Come la usa per incartare il pesce? Ma no, io diversamente da voi non ho frequentazioni spinellare, quindi non riesco a... Non so che uso fare, comunque andiamo avanti. Scusi un attimo, io voglio capire, no, eravamo su Berlusconi, è importante, la cosa di Berlusconi, però non si potrebbe trovare una via d'uscita, adesso si sta cercando un compromesso, cioè rimandare sta legge Severino, non votare tra pochi giorni in giunta e rimandare sta legge alla Corte Costituzionale, si può fare, De Luca, diciamo la verità? Io credo che si sarebbe potuto fare, credo che... Si possa ancora fare? Si può adesso, mi pare molto improbabile, perché si è politicizzato il tutto, perché si è aperto uno scontro frontale con la magistratura, perché il presidente Berlusconi ha avuto delle uscite francamente sconcertanti, cioè davvero certe volte diventa il principale nemico di se stesso, con tutta la migliore buona volontà, però è indifendibile. Però è anche vero che è 20 anni che dice le stesse cose Berlusconi sulla magistratura, per cui è 20 anni che dice queste cose, ma pure 20 anni che fa altre cose pure lui. Dai, ma non è che vogliamo beatificare. No, per carità, però insomma alla fine dice lei, se uno decidesse oggi di mandare sta legge alla Corte Costituzionale, di prendere un po' di mesi, non è che sarebbe uno scandalo, dai, o no? No, assolutamente no, dal mio punto di vista no, ma non per perdere tempo, perché ritengo che sia un diritto di chiunque debba difendersi. Quindi ha ragione. Questo c'è, ma ripeto, si è politicizzata e ideologizzata a tal punto. Guardi, io penso che sulla giustizia noi dovremmo cambiare tutto, a condizione che ci mettiamo d'accordo su un punto: la assoluta, vera e piena autonomia del magistrato giudicante. Una volta che... Ma lei farebbe la separazione delle carriere? Questo, la farebbe? Dobbiamo cambiare tutto. La separazione delle carriere la farebbe lei? Io sì, per come si è messa la situazione in Italia, domani. Perché non è possibile avere uno squilibrio di potere come quello che si è realizzato oggi in Italia. Ma il punto di partenza è un altro. avere la convinzione che l'autonomia di un giudice non è un privilegio del giudice, ma è una tutela per il cittadino e soprattutto per il più debole. Parenzo, è su questo punto che probabilmente non siamo d'accordo. Parenzo, sai che già, c'è un cognome, aspetta, c'è un cognome che è quello di De Luca, che è simile a un altro De Luca. De Luca, quello che vuole sabotare la TAV, non è che siete parenti voi due, no? De Luca è lo scrittore con quello che vuole sabotare il cantiere. No, per carità, dice lei, no? No, non dico per carità, un grande artista. Ogni tanto artista, dice, scrittore. Dice ogni tanto un sacco di stronzate di questa cosa del sabotaggio della TAV, no? Quella cosa poteva risparmiarsi, sinceramente. Comunque, guardi che da quando lei ha pronunciato quella mitica frase, ma avevamo riammazzata la signora Lombardi, Grillo è crollato. L'irrilevanza politica di Grillo è conclamata. De Luca. Si vede che ho dei poteri occulti. Devo dire che per la verità io, anche per tutelarmi da alcuni vostri sedicenti colleghi, mi sono fornito di un corno di corallo che è grande quanto un obelisco. Perché corno di corallo? Il corno di corallo è la nostra tradizione, diciamo un amuleto, un oggetto delicato ma di sicura protezione. Ma per proteggersi da chi, dice lei? Come? Per proteggersi da chi? Vabbè, ma lei sa che ci sono alcuni sedicenti suoi colleghi che sono dei metti male, sono gente che porta secce. Ci sono trasmissioni che io ormai le considero non luoghi di produzione di informazione, ma di produzione di sfiga. Per esempio? Report, diciamone una a caso. Ah, report, sì, report. Non ho mai visto la trasmissione. E là bisogna stare a toccare. L'hanno un po' messa alle strette su sto doppio incarico, diciamo la verità. Ho visto, ma io ho incontrati di recente. Lo so, di recente. Devo dire che dopo l'incontro con quel sedicente giornalista io mi sono convinto della natura superiore dei quadrupedi. Diciamo. Addirittura? Sì, assolutamente. Cioè in alcuni casi i quadrupedi, lei dice, nei confronti di alcuni giornalisti sono superiore. Non c'è dubbio alcuno. Mi diverte molto questo giochino ormai scoperto, se arriva con le due telecamere, una che ti deve registrare perché lui ti fa saltare i nervi, poi la telecamera messa da sotto tipo terzo grado, interrogatorio, polizia, e poi le scemenze, e poi la cartuscella tirata fuori all'improvviso, e pipì e piuta. Questo è il cabaret, dai, è proprio il cabaret. Ma non si stanca, mi fa queste palle. Però lei lo sa, perché il cabaret è un'inchiesta giornalistica, perché il cabaret, scusi, era un'inchiesta sul sottosegretario. Non c'è niente a che vedere. Guardi, io quando parlo di un giornalista, se mi torna alla mente, penso Biagi, Montanelli, che devo dire, e qui la Cabanelli per lei che cos'è? Paolo Mieri, che le devo dire, qui la Cabanelli che cos'è per lei? Gli ho detto, ce l'ho quanto un obelisco, un corno di corallo, ma madonna. Ho capito, ma quel corno, ho capito. Madonna, guardi, hanno avuto lo stomaco. Noi faremo il 24 e 25 ottobre a Salerno il congresso nazionale dell'Istituto Nazionale di Urbanistica. Come riconoscimento ad una città che ha avuto una trasformazione urbana. Vabbè, ma quelli non è che devono fare l'elogio di Salerno, le fanno le domande straordinaria. Ma si può presentare una città che ha avuto una trasformazione frustrata d'Italia come le DPP, le OVE, le quali incompiute? Che tristezza. Vabbè, comunque devono campare pure questi. Anche la dice lei, anche la Cabanelli. Lei e soprattutto i suoi collaboratori di etnia incerta che ha mandato. Ma come di etnia incerta? Ma come? Perché io non lo capivo bene. Prima volta era partita così la cosa. Ne stavamo parlando come parlo con lei, e metto la telecamera sul bancone. Dico, guardi, appena comincia la registrazione mi avverta e cominciamo. Sì, tranquillo. Dopo due minuti mi accorgo che c'è la spia accesa la telecamera. Dico, ma che fa? Sta registrando. È certo. Ma scusi, gli ho detto due minuti fa di avvertirmi. Ma lei voleva il ciak da me. Ho detto, sai che c'è di nuovo? Ma va a morire ammazzato quello. Tipo a Lombardia. Ma però non l'hanno mandato. Abbiamo ripreso un mese dopo. Ma ovviamente la solita storia, no? Mezz'ora di registrazione, poi 10 secondi. Vabbè, ma insomma, abbiamo capito. Senta, lei con chi sta? Con Renzi o con Cuperlo o con Civati? Io ho sempre detto, io sto con De Luca, sono un deluchiano. Vabbè, ma lei alla fine dovrà scegliere chi vota, Renzi, Cuperlo o Civati, se ancora in corsa. E fatemi vedere che propongo. Ma non che propongono? Ma lei lo sa. Ma lei lo sa. Quello che le posso dire di sicuro che combatterò duramente contro il correntismo. L'unica Vabbè, cosa che è d'accordo, quello l'ha detto sempre. Però tra Renzi, Cuperlo e Civati, quelli che per adesso sembrano i candidati, il sindaco di De Luca, potentissimo sindaco di De Luca, con tanti voti in Campania. Sta con Letta. Con chi sta? Sì, ma no, io non ho voti da nessuna parte. Vabbè, ma con chi sta lei? Con Renzi, io dico la verità, sono con Renzi. Stima per i candidati presunti. Vabbè. Quando si presenteranno si paleseranno, vedremo, valuteremo i programmi che hanno. Quello che posso dire di sicuro è che non accetterò più di coprire questa palude burocratica e questa specie di circo equestre che è diventato il PD per il correntismo. Ma come il circo equestre? Addirittura un circo equestre? Peggio del circo equestre. I che hanno accompagnato l'attività del partito nell'elezione del Presidente della Repubblica, nelle riunioni di organismi, ci siamo dovuti vergognare. Addirittura, anche adesso, è meno male che nell'ultima riunione è prevalso un minimo di senso di responsabilità. Con la cosa dell'8 dicembre. Vabbè, sindaco, a presto, arrivederci. L'8 dicembre mi ha fatto notare qualcuno che è l'Immacolata. Appunto. Nel senso che la Madonna l'accompagna. Accompagni pure lei, voti bene pure lei, che ne so, lei non ci vuole dire per chi, però vabbè, tanto alla fine voterà Renzi, lei su De Luca, mica è stupido lei. Non è che si mette amici miei. Non è che si mette dietro i perdenti lei, no? O no? No. Però non mi avete fatto salutare invece gli altri vostri colleghi, quelli chi? Delle Iene. E che hanno fatto pure le Iene? Sono venuti pure questi, però con questi c'è più accordo. Ma che hanno fatto? Io... Sempre su doppio incarico sono venuti? No, questi sono venuti a cercare di dare un po' di fastidio, però con le Iene io ho un accordo profondo, nel senso che si autodefiniscono Iene ed io concordo sulla loro natura animale. Ma scusi, che volevano? Ho un dubbio sulla specie, diciamo, perché mi pare sembrano più ciucci che Iene, però... Ma che volevano? Ma sono, sono andati perfino a disturbare una cerimonia religiosa, una processione. Siamo arrivati a un punto tale di imbarbarimento. Vabbè, di ma dai, insomma, quelli giustamente rompono i coglioni a tutti, mica rompono i coglioni solo a lei. Dai. No, non a me. Sto parlando della processione religiosa, ma stiamo impazzendo. Ma manco questo. Vabbè. Tutta una città. Ma lei dice Striscia la Notizia, le Iene, il report contro di me per volere di PDL e PD, addirittura, cioè un complotto di Striscia la Notizia. Quali complotti? Nel giorno di San Matteo, sono andati là nel giorno di San Matteo. Ma le Iene è un grande programma, io ho un sacco di amici, vanno là a rompere i coglioni a tutti, mica guardano in faccia. Non guardano in faccia a nessuno. No, ma questa non l'avevo ancora vista, cioè andare a disturbare una cerimonia religiosa. Vabbè. Dai, noi scherziamo, ci divertiamo, ma ci deve essere pure un punto limite, no? O no? Ma sì, però loro, ma il punto, non bisogna avere limiti, le Iene non hanno limiti, cioè, ha capito? Sono andati a cercare un'intervista con lei, credo, sul doppio incarico, e sono andati a rompere le palle anche durante la processione del Santo Patrono, vabbè, ma non c'è... E sa come si fa quando si vuole un'intervista? È semplicissimo. Si telefona e si chiede l'intervista. Ma loro non fanno così, loro vanno, capito? Loro vanno lì, cercano la sorpresa, è normale. Ma io ho capito, ma loro cercano il cabaret, ma uno non lo vuole il cabaret, e chi se ne frega il cabaret. Ma credo che fosse la cosa, credo che fosse il doppio incarico, credo che fosse il doppio incarico. Ma lei non deve... Scriviamo pure loro fra i sofferenti. Lei non deve dare soddisfazione a nessuno, mi dica quando è che si dimette da sindaco di Salerno, ci dia una data, così la diciamo subito, diciamo una data. Assolutamente no, non mi dimetto, gliel'ho spiegato. Le non mi dimetto, benissimo. Determinano lo scioglimento e la paralisi. Non mi dimetto, vabbè, non mi dimetto. Non mi dimetto. Soprattutto per non dare soddisfazione alle Iene, a Travaglio e agli altri. Non mi dimetto, non mi dimetterò mai fino alla fine della consigliatura, là come si chiama? Fino alla fine dei nostri giorni. Dei giorni. A presto. Ciao. Grazie, buon lavoro, buon lavoro. Ciao. Zanza. Gerani sui Balcani che tengono lontane le zanzare. Non siete seri per niente. E laica, la matriosca è laica e suona con maestria l'arpa. Ormai è tutto degradato. Ormai. Vado a prendere la Pravda, c'è in omaggio. Gianni da Bologna, buonasera Gianni. Buonasera Crociane. Allora, Crociane. Perché vai, continua vai a difendere quei cazzi di Froggi? Ma chi è che difende Froggi? tu stai distruggendo la Barilla per difendere quattro froce che occupano i parcheggi, gli autogrill, sì. Il camionista, perché ti porta la Barilla a casa tua per mangiare, tu lo stai distruggendo e stai difendendo quello che non fa dormire il camionista, e metti anche la stessa, perché tu le difendi. No, ma io non ho capito bene. Non mi fanno dormire la scusi, notte. Scusi, Gianni, non certo ho... che vado a mettere in discussione la sicurezza stradale. No, ma scusi un attimo, allora, ma non tu ho... sei froccio. Io non ho capito bene, non ho capito bene una cosa. Gianni, se io sono omosessuale o no, la cosa non è molto interessante. Se anche lo fossi, quale sarebbe il problema? Non ho capito. Di cosa ti lamenti tu, che non ti fanno dormire? Perché? Chi è che non ti fa dormire? Allora, io ti sto dicendo questo. Tu stai distruggendo, anzi, lei sta distruggendo la Barilla con quei spot. Uno. Ma io non sto distruggendo nessuno, Barilla si è distrutto con le mani sue, se si è distrutto, in realtà ma non si... come, con le tue domande? Ma ho capito, ma io domando quello che voglio, poi uno risponde o non risponde, che vuol dire? Ho capito, allora perché non fai una campagna? Ho lasciato i camionisti ma dormire la notte, signore Froci, che io vi sto difendendo, però lasciate i camionisti dormire. Ma scusi un attimo, perché non la fanno dormire i Froci, i cosiddetti, quelli che lei chiama Froci, perché non la farebbero dormire? Me lo io vuole le spiegare? Chiamo Froci perché... Allora, lei va in giro o non va in giro? Ma sì, ho capito, ma non è che vedo i frotte di Froci che le impediscono. Ma va in giro lei? Ma vai in parcheggi, ma vai nei parcheggi la notte dove parcheggiano la gente che fa una guerra quotidiana, che va in giro col camion per consegnare la merce a quell'azienda o a quell'azienda che stanno... Vabbè, ma non ho capito perché non la fanno dormire. Non ho capito perché non la farebbero dormire, scusi. Allora, e Froci, e Pinocchi, i Froci, e i signor uomini sessuali come lei li chiama... Come vedono un camion fermo su un parchetto, vanno a bossare, poi una compagnia. Ma chi l'ha detto? Ma non è vero, Gianni. Beh, ma che male c'è? Ma adesso io faccio un sondaggio. Come non è vero? Io faccio un grande sondaggio tra. Aspetta, io faccio un grande sondaggio tra tutti gli autotrasportatori che sono in Italia in ascolto, e sono tantissimi in questo momento. È vero o non è vero, come sostiene Gianni da Bologna, che i Froci, i cosiddetti Froci omosessuali, ogni volta che vedono un camion in una piazzola ferma, ma fanno toc toc, pronto, vuole spassarsela con me? È vero o non è vero, impedendo ai signori, ai suddetti autotrasportatori di dormire? È vero o no, Gianni? Lei che esperienza ha? Ai autotrasportatori, ai signor camionisti. Vabbè, camionisti uguale, su. Allora lei, perché lei ogni sera che sta fermo là c'è qualcuno che bussa? Ogni sera, ogni volta che mi fermo a un parcheggio, cioè occupati, i parcheggi ormai sono occupati dai signor uomini sessuali, non so se signori, e lei le continua a difendere, questa è una vergogna. Ma che vuol dire? Questa è una vergogna, lei deve difendere il lavoro, allora, Crociani, se lei non ha capito che siamo in tempi di merda, di crisi, che le aziende stanno andando in Romania, in Bulgaria, da qualche... dove il costo del lavoro, e lei continua a distruggere una volta un'azienda e per difendere gli uomini sessuali, è alla faccia della democrazia. Ma di quale democrazia sta parlando lei? Penso, pensaci tu, ti prego, pensaci, no, voglio capire, signor Gianni, qual è il, anche fosse, mettiamo fosse meno, no, che qualcuno bussa al suo camion mentre lei sta dormendo, ma qual è il disturbo che le arreca il signore che dice se vuoi, anzi anche no, gentile signor, dice, compagnia... Signor Crociano, vuoi che ti chiamo signor Crociano? Sì, signor ma... Crociano, il camionista fa una guerra quotidiana che porta un mezzo di 43 tonnellate sull'autostrada, e sull'autostrada non è proprietà di Crociano, non è proprietà di quello, è proprietà del popolo, e quindi c'è la sicurezza di ogni singola persona sopra l'autostrada. Ma lì. Io non ho capito bene, ma cosa ma cosa accade? Se io non dormo la notte... Ma che me ne frega a me se lei non dorme la notte? Sarà un problema suo, non sarà... Ma io devo dormire! E lei, il Froci, le deve tenere sotto casa sua! Ma scusi, ma guardi che lei è incredibile. Vabbè. Viva i Froci! Viva i Froci! Vado a stare svegli per amare, vado a stare svegli per soffrire, ma che fastidio che... È in collegamento con noi il mitico Gianni da Bologna, il quale autotrasportatore, camionista... sostiene i gay non mi fanno dormire la notte. Dunque tu, Cruciani, stronzo, testa di cazzo, cornuto, imbecille, eccetera eccetera, non puoi appoggiarli, giusto? No, non ho detto che non puoi appoggiarli, ho detto che non puoi difenderli ogni volta. Allora, lei deve difendere... No, ma io voglio capire questa lavoro. Cosa qua. Lei deve difendere i lavoratori. non devi difendere i froci che non hanno niente da fare dalla mattina alla sera, o magari sono pieni di soldi ereditati dal papà o dal nonno o da quello o da quell'altro. No, però scusi un attimo Gianni, ma qual è la cosa succede concretamente? Lei ferma l'autobus, ci faccia una scenetta, ci descriva una scena. Gianni, che ha fatto? Sì. Ci descriva una scena. Lei ferma di notte il suo autobus, il suo camion su una piazzola dentro un'area di servizio. Che succede poi? Gianni! Un camionista. Aspetta un attimo. Un camionista ha degli orari da rispettare. Trova la piazzola o il parcheggio dove si ferma. Si mette a dormire. Okay? Allora? Allora, sì. Poi? Allora, lei deve capire che un camionista fa dal 13 ai 15 ore di lavoro al giorno. Vabbè, ma che succede a lei? E quindi quando si ferma, ha bisogno di dormire, ha bisogno di riposare. Benissimo, dunque? Non quando ha dormito già che da 2 ore o da 3 ore che dorme. E c'è qualcuno fuori che bussa alla porta. Cazzo, ti spaventi o come? Ti spaventi? O magari che il camion sta prendendo fuoco, che cosa? Pensi al peggio. E dunque, invece? Fuori la testa? E c'è un uomo con tanta di barba, con tanta di minigonna, poi compagnia, ma vattene a fanculo. E questa è la scena che vuoi. Dai Gianni, su, con la barba, con la gonna, che viene a bussare al camion, ma che scena ha visto? Ma lei nei film ha visto queste cose, oppure al bagaglino, ma nemmeno al bagaglino. Dai, su, Gianni. Ma fanno schifo. Le sta facendo lei, il film le sta facendo lei, questa è la vita quotidiana, la guerra quotidiana di un camionista, di un singolo camionista su questo paese. Ma non è vero, adesso io chiamo veramente a raccolta, io chiamo a raccolta tutti i camionisti d'Italia che sono collegati con noi. È vero o non è vero? Come dice Gianni, che quando vi fermate nelle piazzole c'è qualche frocio vestito con la gonnellina e magari pure con la barba che viene a bussarvi alla finestra o alla porta e vi dice: ah, amore, caro, fatti una sveltina con me, ti do anche 50 euro. Non è vero, non è così, Gianni. Non è così, non è così. E che cos'è? Che è un bel ambiente. Ambiente di maiali. Non me moleste moschito. Non me moleste moschito. Non me moleste moschito. Why don't you go on? Non me moleste moschito. È con noi, caro Parenzo, Pier Francesco Pingitore, l'inventore del bagaglino. Buonasera. Buonasera, buonasera. Come sta? Bene, voi state bene. Beh, lei sta bene, signor Cruciani. Beh, combattiamo come leoni. Combattiamo come leoni. Lorenzo sta molto bene, sì. Beh, sono molto contento che lei conosca questa coppia di cialtroni. Come? No, voi mi siete molto simpatici. Senta, caro. Il famoso cabaret di centrodestra, come qualcuno erroneamente ha sempre detto. Il cabaret qualunquista. Sì, erroneamente, perché non sono di centrodestra, non so di centro, non so di destra, non so di nulla. È un uomo libero come noi. Satira, penso che la satira non sia di. Ma comunque, è un uomo libero come noi, se ne fotte, sì, se ne fotte, certo, di tutto. Scusi, caro Pingitore, io voglio capire una cosa. Dirimiamo questa questione, definiamo in maniera proprio assoluta questa questione. La Presidente della Camera ha lavorato con lei, sì o no? Dunque, io l'ho appreso da in pratica da un amico, mi ha detto: ma sai che c'è questa cosa che adesso Striscia la Notizia ha tirato fuori, eccetera. Perché poi mi sono andato a riguardare effettivamente la puntata di Cocco e i titoli di coda, e c'era effettivamente questa Laura Boldrini, che io non ricordo assolutamente, perché era una ragazza, all'epoca aveva 27 anni, che era assunta dal centro di Napoli, dove noi facevamo quel programma, come assistente ai programmi. Ma assistente ai programmi erano intorno a un programma come Cocco, che aveva un pubblico enorme che bisognava gestire con tanti ospiti, lavoravano tante persone. Sì. Io però la Laura Boldrini, come Laura Boldrini, non me la ricordo. Può darsi che l'abbia vista qualche volta. Ma diciamo la verità, è una contraddizione o no fare la crociata contro gli spot dove ci sono le donne, ma fare la crociata anche contro la gnocca in generale, contro il corpo femminile, contro le donne mezze nude, e aver lavorato tanti anni fa in un programma dove insomma c'erano donne scollate, eccetera eccetera, per non dire. Ma però scusi Crociani, io non sarei così deciso, nel senso che la ragazza probabilmente doveva lavorare, probabilmente non c'ha neanche queste idee così toste e così bigotte come adesso, da parte mia, secondo il mio giudizio, che ostenta oggi, e quindi magari allora ha fatto un lavoro senza pensarci troppo, e forse appunto oggi che oggi è un po' bigotta, dice lei. Era meglio quando aveva 27 anni. Era meglio quando aveva era più giovane. Era meglio, senz'altro, quando aveva 27 anni e non aveva tutte queste ubbie, tutto questo puritanesimo. Ma insomma, ma che male hanno fatto le pubblicità con le donne nude? Pingitore, su, me lo dica pure, lei al presidente della Camera, lei che ha una certa esperienza, lei che ha ha fatto la storia anche del cabaret politico italiano, del teatro, eccetera. Lo dica al presidente della Camera. Ma io la pregherei proprio di recedere da questa crociata, perché quando il fatto che le donne ostentino la loro bellezza e si attribuisca a loro questo fatto che la vendono, ma tutti ci mettiamo in vendita, ma il comico non mette in vendita la propria capacità di far ridere, lei non mette in vendita, io non metto in vendita le mie poche capacità di fare uno spettacolo, eccetera, e il fisico nucleare non mette in vendita la propria... E le donne? Che sciocchezza è, no? E le donne mettono? E le donne mettono in vendita. Ricavano di che vivere e di che prosperare dal fatto di essere belle. Ma la bellezza, come diceva Oscar Wilde, guarda che citazione, sì. La bellezza è un aspetto del genio. Capito? E dunque usare il proprio corpo per guadagnarci sopra, genio. Per guadagnarci, è come usare il genio. Ma si capisce, ma che è questo puritanesimo d'accatto, questo fatto? Qui stiamo tornando a tempi savonaroliani addirittura, ma io pensavo fossero spariti per sempre. Uno non vuol guardare le donne nude, non le guardi, chi se ne frega. Cioè, addirittura Boldrini come Savonarola quasi. Boldrini come Savonarola quasi. Ma sì, capito? Cioè, abbiamo questi nuovi piagnoni per cui non si può più fare niente, per cui cioè, la tutto donna è peccato, bella vedere, cioè, scoprire. C'è sotto altre vesti la riproposizione del peccato. Siccome pensavamo che il peccato lo avevamo un po' archiviato, o comunque magari ci dava il piacere di farlo, tornare adesso ad agitare questo spettro per poi giocare un ruolo politico. Quando la zanzarita tormenta la mia noce, passa in blanco, mañana io sono stanco. Me l'ha detto il dottore, siamo tutti froci. Perché di fuori sembriamo una cosa, però invece all'interno è un'altra. Basta essere ignoranti, dobbiamo essere più comprensivi con i froci, avere un rapporto. A me il sindacato mica me l'ha detto. Ma perché non gliel'abbiamo chiesto? Voi pensate solo alla scala mobile. Lo dobbiamo far mettere sull'ordine del giorno come una cosa normale. Ma perché oggi essere froci è normale? Dobbiamo essere più moderni, come i greci antichi. Per loro non solo non era un difetto, ma essere froci era una cosa da vantarsi. Ah, appunto. Appunto un par di coglioni, che te pare che stavano nella Grecia antica? Testo Croce con Nino Manfredi, Pingitore, ricorda? Sì. Pronto? Sì, la sento. Sì, senta un attimo, ma la questione gay, di cui si è parlato molto, si parla moltissimo dopo la vicenda Barilla, eccetera, che è esplosa qui alla Zanzara, ma non entrava mai nel bagaglino? Ma, vede, noi al bagaglino avevamo sempre una convivenza totale con chiunque, qualunque credo d'ogni genere, qualunque convinzione e qualunque tendenza sessuale o meno. In che senso? Per cui la cosa non ci ha mai sfiorata. Se qualche volta abbiamo fatto una battuta, cioè, può anche darsi, però adesso sai... Però il bagaglino era un periodo in cui non è che c'erano personaggi omosessuali, c'era, come no, però c'era il grandissimo... Lionello, chi c'era? No, Lionello, cosa? Come si chiama? Scusa, Lionello. Lionello non c'entra niente. Dico di Leo Gullotta. Gullotta. Come no? Ma Leo è sempre stato amato moltissimo da noi, stimato perché è un grandissimo attore ed è una persona squisita. Quindi io credo che bisognerebbe, adesso non è che voglia fare il moralista, cioè, però bisognerebbe piantare la gente sessualmente, fa quello che gli pare. Ma lei lo vorrebbe il matrimonio gay, Vincitore? Come? Lo vorrebbe il matrimonio omosessuale? Ma vedi, io sono un po' della vecchia generazione, quando mi sono sposato io penso che proprio abolirei il matrimonio per tutti, ma comunque, a parte questo, credo che la resistenza al matrimonio gay è data dalla parola matrimonio, perché nell'accezione della gente comune... Cioè si eliminasse la parola matrimonio... Una cosa che è legata alla famiglia tradizionale, cioè, ma non si può fare la stessa cosa senza chiamarla matrimonio o chiamandola... Penso che allora si abolirebbero, credo che si supererebbero tante resistenze, perché l'unione di due persone, maschi, femmine o altro, eccetera, che si vogliano bene, che si dedichino alla vita, certo non è che ha l'assoluto diritto di cittadinanza, questo secondo me. Poi, allora, ma io non capisco una cosa, Pigidore, lei voleva mettere però una volta una roba che si chiama il contatore sessuale. Ma che vuol dire il contatore sessuale? Su, Pigidore. Che doveva contare? Io volevo mettere il contatore sessuale quando? Non mi ricordo. No, lei ha scritto: bisognerebbe mettere un invisibile contatore sessuale nell'organismo umano, un piccolo contatore sessuale. Simile No, quella era una cosa, una battuta, quella era. Anzi, una satira. Ho detto che bisogna mettere il contatore sessuale proprio perché, siccome c'è questa irruzione di tanta gente che vuole sapere i fatti tuoi, che ti vuole giudicare, che ti vuole spiare, eccetera, allora mettiamo il contatore sessuale, ma era una battuta. Un attimo solo, Letta ha respinto le dimissioni di Alfano e dei ministri del PDL, sì, dunque tutto si ricompone. Vabbè, oggi come, che personaggi metterebbe se ci fosse il bagaglino, Vincitore? Ma che sa cos'è, che per tutto quel che avviene conviene in un certo senso, qui il cabaret se lo fanno da soli, ma io diventa difficile, certo i personaggi sono più o meno quelli che vediamo, sono Grillo, Berlusconi, Letta, però mi cascano un po' le braccia anche perché... Beh, sta commedia di Berlusconi di questi due giorni è incredibile, cioè adesso... A me dispiace molto perché personalmente è un po' berlusconiano, lei è un po' cara, però che ha commesso dei grandi errori e che purtroppo in questo momento mi sembra non abbia ben chiaro che cosa vuole fare. No, grazie Pigidore, a presto, grazie. Prego, grazie, ciao. Saluti, ciao. Non me moleste moschito. Allora, Carlo da Frosinone, il nostro appello agli autotrasportatori molestati dagli omosessuali fa breccia. Carlo. Buonasera. Allora. Senta, io volevo dire che il collega ha ragione al 100%. Ma no, ma non esistono queste cose qua, dai. Ma allora, se tu non ci credi, vieni con me una settimana, ti faccio vedere quanti bombini ti fanno. No, non ho capito, scusi, no, aspetta, qui siamo in una zona in red zone. Allora, caro Carlo, chi è che fa i pompini a chi, innanzitutto? Mi dica subito. A chi? Ma uno non è che se li fanno a forza, uno se vuole se li fa fare, no? Ma tu non puoi capire, rompono i coglioni, ci svegliano in continuazione. Ma lei pure fa il camionista, beh, questa cosa è eccezionale. Certo. Abbiamo scoperto una cosa, c'è un problema tra i camionisti italiani, c'è un grandissimo problema. Ma io non lo sapevo, scusami Parenzo. Ma non io lo sapevo perfettamente, ci sono alcune zone, in particolare a Barberino Ronco Bilaccio, alcune aree di servizio. A Scandicci. A Scandicci, esattamente, ti conosco perfettamente, in alcune zone ci sono i camionisti che vanno lì, appoggiano i loro camion, e ci sono dei lavoratori, perché quelle persone sono dei lavoratori. Alza la voce che non si sente, i lavoratori allora? E non posso urlare, sono all'ospedale, quella lì è gente che lavora, che chiede se vogliono un servizio, quindi dicono di no, arrivederci e grazie, ma se fosse una puttana, ad esempio... Nessuno si scandalizzerebbe così. Ma vengono, io non capisco perché lei dice rompono i coglioni, sì, Carlo, scusa. Bussano, perché bussano? Perché? Fai parlare Carlo un attimo. In continuazione ti bussano, scusi, che c'hai da accendere? Ma alle 3:30 del mattino mi chiedi se vuoi da accendere, ma vattene a fanculo, no? Non mi puoi rompi i coglioni, io sto a dormire. Scusi Carlo, dove accade tutto ciò? Tutto ciò dove accade? Dappertutto, una volta addirittura stavamo avevamo appena sbarcati da Scilla, sì, e stavamo salendo sopra, a un certo punto mi aveva messo in mezzo alle gambe, ha detto guarda mi sono chiamate questo, aspettate, chiamate, chiamate questo qua, provate agli autogrill raccordo anulare sulla E45, sulle piazzole A14, zona Modena, ma dove vivete? Fabio, autotrasportatore con numero di telefono, su, chiamiamo, chiamiamo! Carlo è caduto, era stupendo, era Vittorio da Pescara. Pronto? Sì, dica. Sì, ma senta, io volevo parlare del programma di Minoli di questa mattina. E che ci frega a noi del programma di Minoli? Eh no, volevo dire che è sconvolgente il modo in cui è stata impostata la trasmissione. Ma non lo so, non l'ho ma non l'ho sentito io, Vittorio. Qual è il problema? Che ci frega a noi? Il problema è che in pratica mo in Italia Berlusconi è stiamo facendo il requiem a Berlusconi. E quindi ogni programma che si sente c'è il requiem a Berlusconi. Questa mattina proprio l'apoteosi è stata il guardi, programma non, di Minoli. Non ho sentito questa mattina il programma di Minoli. Non è solo lì. No, ma ho capito, ma adesso stare lì a fare... Ma qual è il problema di questo? Non lo so, ma non lo so. Sì, sì, il problema è il problema. Vabbè, chiaramente il suo interlocutore che era lì non approva quello che io sto dicendo. Però non si sente mai una voce a favore, cioè... Ma non si devono sentire voci a favore o contro, ma non c'è il bilancino, voce a favore. Infatti era un programma con tre sbilanciato completamente, io qui questo critico, cioè non si può fare un programma senza chi può ribattere, hanno fatto parlare due persone. Vabbè, cioè, ma guarda, a noi non ce ne può fregare di meno di quello che succede. Fabio, autotrasportatore che ci ha chiamato, qual è la situazione? Sì, salve, allora, stavo sentendo la vostra trasmissione, allora... Dimmi Fabio. Di intervenire. Vai, dimmi. Niente, praticamente mi sembra una cosa strana che voi non lo sapete. Ma no, ma scusi, io non sono né un autotrasportatore, non sono nemmeno un frequentatore. Io lo sapevo, a me l'avevano raccontato, io lo sapevo. Basta fermarsi. Lei è di Roma, credo, pure basica Roma, quella zona. Ma io vorrei capire una cosa, caro Fabio, sì, cosa sì, succede concretamente, cosa accade? Cioè, che noi ci fermiamo anche solo per prendere un caffè. E che succede? Come si fermi, ti cominciano a girare le macchine intorno, ma è una cosa che sanno tutti, anche le forze dell'ordine. Cioè, cominciano a girare le macchine? Praticamente ti si affaccia queste persone che ti chiedono se vuoi salire, se possono salire loro in cabina. E pagano? Pagano? Io non lo so, perché io li ho sempre mandati a fanculo, a me non mi interessa, capito? No, questo ho capito, ma scusi, pagano o non pagano, Fabio? Ma certo che pagano anche, sì. È una cosa che sanno tutti, ma lei se fa la 14, se voi fate venendo da Milano direzione Bologna, sì. Ci sono delle aree, le uniche piazzole di sosta grosse, è pieno di macchine che girano aspettando che si fermano i camion. Cioè è una cosa normale, io vengo a Roma, mi fermo in autogrill di notte, chiudo, mi metto vicino agli altri camion perché ho paura che mi bussano, capito? Addirittura paura che bussano. E che deve succedere? Sì, perché che fanno la violenta? Solo. Io sono delle Marche. E che fanno la violenta? Non scusi, Fabio. No, scusa, mi violenta, ma lei si mette nei miei panni. Mi fermo in un autogrill, mi viene a bussare una persona con una maglia, io posso pensare che è anche un criminale, capito? E invece poi che cos'è? Ho capito come funziona. E invece è un ricchione. È un ricchione, sì, certo, è un ricchione. Allora, incredibile, dai. Su. No, è normale, guardi, lei faccia un'indagine, vedrà che le dicono tutti la stessa cosa. Ma la sto facendo l'indagine, io non penso che ci siano branchi di froci che circolano per autostrade italiane in cerca di autotrasportatori, e dai, è su. È una cosa normale, solo è voi che non lo sapete, ma lei... No, io lo sapevo. No, Parenzo dice che lo sapeva. No, io lo sapevo perfettamente invece questa storia qui. Tant'è cioè, capito, che... non è che... Io mi sono meravigliato più di che lei non lo sapeva. No, però scusi, io non è che... Tanto lo sapevo, che mi hanno spiegato che siccome c'è un mercato, perché qualcuno evidentemente ci va, perché sennò non è... Sì, esatto, il discorso è quello, il discorso è colpa anche degli autotrasportatori, che sicuramente qualcuno ci va, certo. Perché sennò non sarebbero lì tutti i giorni, hai capito com'è la situazione? Certamente che è così, in particolare a Barberino Ronco Bilaccio c'è proprio un presidio... Io adesso quella zona là non la faccio, però io adesso vado in direzione Milano... Tutti i giorni, lei anche di giorno, se passa c'è sempre le solite macchine. Ma che fanno questi? Danno i soldi? Che fanno? Io non lo so, io li mando via, io non ci parlo, però... Ho capito, ma normalmente che fanno? Le mosse che con le mani, lei è presente quando uno si fa la mossa... No, non ho presente. No, quella di benzina. dice fammi... così, okay. Il gesto della pompa, sì, ho capito. Fanno quelle mosse... Io non ho capito se lo fanno a gratis oppure poi io pagano. Questo, vabbè, si informi e ci richiami. Ci sentiamo domani alle 18:30. E lei, bro, ce le deve tenere sotto casa sua. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30, lo so, alle 8, lei ha ragione, lo dica a voce alta.